La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. L'incantesimo della sorgente Pulci di Neve. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. In un piccolo villaggio dell'antica isola di Hycnos viveva un pastore di nome Sileno. Egli aveva due figlie ed era rimasto vedovo alla nascita della secondogenita, che chiamò con lo stesso nome della madre, Caterina. Sileno era sempre stato un buon padre, dedito alla famiglia e alla cura del gregge. Ma, si sa, la vita del pastore è assai dura e con il trascorrere degli anni Sileno si ammalò. Purtroppo né medici né maghe guaritrici riuscirono a curarlo. Una notte, quando ormai sentiva prossima la fine, Sileno fece un sogno. Gli apparve accanto al capezzale la lumerpa, il magico uccello luminescente, capace di grandi profezie. Sileno caro, io so quanto soffri, ed è per questo che sono qui. Esiste una sorgente ad oriente dell'isola di Hycnos che sgorga da sotto le acque del mare. Il suo nome è Pulci di Neve. Essa si trova di fronte a una spiaggia che si affaccia su un grande golfo ed è fatta di sassolini bianchi. Le acque di quella sorgente sono portatrici di poteri benefici. Sileno caro, potrai guarire solo se bagnerai i tuoi piedi con quell'acqua. Dette queste parole, la lumerpa svanì nel sogno. Quando Sileno si svegliò, chiamò accanto a sé le figlie e raccontò loro il sogno. Poi sospirò. «Oh, se potessi avere anche solo una ciotola d'acqua di quella sorgente!» Quello stesso giorno la figlia maggiore di Sileno prese una brocca e in groppa al fedele asinello Ciucco Molente s'avviò verso la sorgente Pulci di Neve. Dopo giorni e giorni la ragazza giunse alla spiaggia, scese dall'asinello e con la brocca in mano si avvicinò alla riva. D'improvviso sentì una voce. «Gentile ragazza, potrai avere la mia acqua guaritrice solo se accetterai di amarmi». A quella voce la ragazza strabuzzò gli occhi dallo spavento. «Non devi avere paura», continuò la voce misteriosa. «Voltati». La ragazza si voltò e vide Ciucco Molente. «Gentile ragazza, vuoi tu amarmi?» Era Ciucco Molente che parlava. Parlava. In preda al terrore, la ragazza posò lentamente la brocca a terra e scappò. Il giorno dopo fu la sorella minore, Caterina, a voler andare alla sorgente. Quando vi arrivò, vide la brocca abbandonata dalla sorella sulla riva, mentre Ciucco Molente stava accovacciato sulla spiaggia a godersi il sole. Caterina s'avvicinò all'asinello e lo accarezzò. Poi prese la brocca e subito sentì la voce: «Graziosa fanciulla, potrai avere la mia acqua guaritrice solo se accetterai di amarmi». Caterina non ebbe paura e accettò la proposta. Poi si voltò e vide Ciucco Volente che le domandò: «Come ti chiami?» «Caterina», rispose la fanciulla. «Dolce Caterina, ti ringrazio per aver accolto la mia proposta. Ora riempi pure la tua brocca e porta l'acqua benefica a tuo padre Sileno. Io verrò a trovarti tra qualche giorno». Caterina riempì la brocca d'acqua e in groppa a Ciucco Molente tornò a casa. Appena Sileno bagnò i suoi piedi con l'acqua della sorgente, sentì le forze ritornargli e in poco tempo guarì. Trascorse qualche tempo e una sera bussarono alla porta della casa di Sileno. Caterina andò ad aprire e vide un uomo avvolto in un grande mantello di velluto del colore della porpora. Al solo vederlo, Sileno e la figlia maggiore fuggirono spaventati. Ma Caterina non ebbe paura. Il misterioso visitatore ricordò alla fanciulla la promessa fatta alla sorgente Pulci di Neve e subito lei sorrise nel riconoscere quella voce. L'uomo misterioso fu accolto in casa e appena entrato si levò il mantello. Oh, quale meraviglia! Davanti a Caterina stava un giovane vestito in modo principesco di gran bell'aspetto. «Mia dolce Caterina», disse il bel giovane, «il mio nome è Giovannino, principe della Martilla, e sono figlio del conte da Mapefosca. Quando ero bambino, fui rapito dalla strega Polinnia, la megera perfida che vive sotto la sorgente Pulci di Neve. Tu, coraggiosa Caterina, mi hai liberato, promettendo di amarmi. Verrò ogni sera a trovarti, ma prima dell'alba dovrò andar via, perché se qualcun altro dovesse scoprire il mio aspetto, io non potrei più tornare». «Non importa, mio dolce principe, ci ameremo in segreto e nessuno saprà di noi». I due innamorati si abbracciarono felici. Da allora e ogni sera il principe Giovannino tornava a far visita alla sua Caterina e allo spuntare dell'alba, dopo aver indossato il mantello, scompariva nel crepuscolo del giorno. Caterina amava tanto il principe Giovannino, ma, ahimè, tanta era la forza dirompente di quell'amore che la fanciulla non riuscì a tenerlo solo per sé. Cosicché un giorno svelò al padre il suo segreto d'amore. Il buon Sileno, che desiderava la felicità di sua figlia, sperando di disfare il maleficio della strega, attese nascosto l'arrivo del principe, poi prese il mantello e lo bruciò nel camino. Passò la notte e mentre l'alba era pronta a prendere il posto della notte, Giovannino cercò il suo mantello e ovviamente non lo trovò. Un tremore in tutto il corpo lo invase, che con il sorgere del sole divenne sempre più forte, finché, a giorno fatto, il principino svanì nel nulla. Caterina si disperò. Era certa che la strega Polinnia doveva aver catturato nuovamente Giovannino, cosicché decise di andare a cercare il suo principe. La notte stessa la fanciulla salì in groppa a Ciucco Molente e partì per la sorgente Pulci di Neve. Era quella una notte orfana della grande luna, una notte nera. Il buio e le voci d'animali sconosciuti non parevano buoni presagi. Durante il cammino la fanciulla vide una capanna, davanti al cui ingresso sedeva un vecchio illuminato dalla luce di un piccolo fuoco. I suoi occhi erano completamente bianchi. Le mani tremolanti stringevano, tirando a sé, una lunghissima fune di canapa intrecciata che saliva e saliva, salì verso il buio del cielo, come se lassù, nell'oscurità, egli tenesse in volo un aquilone. Il vecchio tese l'orecchio e domandò: chi è che viene? Chi disturba la notte nera? Chi siete? Caterina scese dall'asinello e disse: Salute a voi, buon vecchio. Vi prego di perdonarmi. Mi chiamo Caterina e vengo da un paese lontano. Salute a te, Caterina. Io sono Tiresia, il guardiano della notte nera. Dimmi, perché sei qui? Vado alla sorgente Pulci di Neve. Pulci di Neve? E perché vai sin laggiù? Caterina raccontò tutta la sua storia. Quando ebbe finito, il vecchio Tiresia disse: La tua vita è piena d'amore e di coraggio, mia cara fanciulla, e questo ti fa onore. Ma io purtroppo non posso accompagnarti, perché sono cieco e ho da far la guardia alla notte nera. Vedi? Devo tenerla ben stretta con questa fune, altrimenti fuggirebbe, e una volta scomparsa, l'alba non saprebbe più dove spuntare. Anche se, ahimè, più invecchio, più divento debole e più mi è difficile tenerla stretta. Comunque, io non posso aiutarti, cara fanciulla. Ma non devi disperare, perché forse Piccola Luna potrebbe avere notizie sul tuo principino. Il vecchio Tiresia chiamò il piccolo astro della notte, e sebbene quella fosse una notte nera, dove solo le stelle pasticciavano il cielo, ecco comparire da dietro un cespuglio di more selvatiche Piccola Luna. Vecchio Tiresia, tu mi chiami, dimmi, che cosa desideri? Domandò Piccola Luna. Piccola Luna, astro della notte che illumini i nostri sogni, disse il vecchio Tiresia. La fanciulla che tu vedi accanto a me si chiama Caterina. Ella è in viaggio verso la sorgente Pulci di Neve, alla ricerca del suo amato Giovannino, principe della Martilla e prigioniero della strega Polinnia. Io non posso far nulla per lei, ma tu forse sì. Piccola Luna si avvicinò a Caterina e, dopo averla scrutata negli occhi, disse: Per la grande luna e tutte le stelle che stanno intorno, da tanto tempo non vedevo certi occhi pieni d'amore e così temerari. Oh, dolce fanciulla, quanto vorrei aiutarti, ma ahimè, io non so dove sia il tuo amato principe. Probabilmente egli ora si trova dove non può essere visto. Prova a chiedere al grande vento maestro, mio fratello. Lui si intrufola in ogni luogo e in ogni pertugio, e forse potrebbe aiutarti più di me. Lo troverai al primo vento gelido che soffierà nella valle. Vi sono molto grata, piccola luna. Farò come dite. E che il destino ti sia favorevole, dolce fanciulla. Ma prima di andare, se guardi ai tuoi piedi, vedrai una ghianda d'argento. Prendila, sono certa che ti servirà. Dette queste parole, piccola luna tornò nel suo rifugio. Caterina raccolse la ghianda d'argento e, dopo averla messa nella bisaccia, salì in groppa al suo asinello. Ma prima di partire, il vecchio Tiresia la fermò. «Aspetta, dolce Caterina, vorrei che tu lasciassi con me Ciucco Molente. So che non ti servirà per il prossimo cammino, mentre a me farebbe compagnia e potrebbe aiutarmi a tenere stretta la notte nera». Caterina scese dal suo asinello e lo consegnò al vecchio Tiresia. «Ecco, tenete, vecchio Tiresia, sono sicura che con voi il mio Ciucco sarà in buone mani». Dette queste parole, la fanciulla si incamminò alla ricerca del grande vento maestro. Quando Caterina sentì le prime folate di vento freddo, capì d'essere arrivata. Il grande vento maestro soffiava, rabbioso, e quasi gelido, ma appena vide la fanciulla con la tristezza in viso, si quietò. «Chi sei? Perché sei qui? Che ti succede, ragazza?» domandò il grande vento maestro. «Grande vento maestro, il mio nome è Caterina e vado alla sorgente Pulci di Neve per liberare dalla strega Polinnia il mio amato Giovannino, principe della Martilla». E il grande vento maestro disse: «Giovannino principe? Ah, dolce fanciulla, sono desolato per te, ma il tuo amato principe non è più prigioniero della strega Polinnia. Egli è ora nella sua Martilla, terra di colline da me levigate, dove giace rinchiuso nella torre che domina la fortezza del terribile e potente mago Chiremia, brigante, rapitore e cugino della strega Polinnia. Giovannino gli è stato venduto per qualche dentino di trago, perché di sicuro il potente mago vorrà chiedere un riscatto al conte da Mapevosca, padre del principe. Ma come potrò arrivare sin laggiù? Laggiù? Non essere folle, Caterina. Devi rassegnarti. Che potresti fare tu contro quel mago potente? La sua fortezza ha mura altissime ed è protetta dalle forze del male. Non mi importa. So che l'amore per il mio principe potrà darmi la forza per affrontarlo. Se poi io e il mio principe dovremo morire, allora sarà un dolce sonno per entrambi. Ti scongiuro, grande vento maestro, aiutami se puoi. Coraggiosa fanciulla, se questa è la tua volontà, stai certa che ti porterò sin laggiù. Subito una grande folata di vento sollevò Caterina e la condusse nelle colline della Martilla. Quando vi giunse, il grande vento maestro pose la fanciulla ai piedi della fortezza del mago Chiremia e parlò. Caterina cara, devo lasciarti qui. Io non posso andare oltre queste mura, perché dentro vi stanno le furie Duros, esseri mostruosi del male, con le teste piene di aspidi, coi serpenti dal veleno mortale. Contro le furie Duros neppure io posso lottare, mi dispiace. Ora però devo lasciarti, mia cara fanciulla. Sono in ritardo e ho da far battaglia al gran cugino d'Oriente, Levantino, che soffia, violento dal mare, e porta tempeste. A proposito, se guardi ai tuoi piedi, vedrai una ghianda d'oro. Prendila e portala con te, perché so che ti servirà. E che il destino ti sia favorevole. Dette queste parole, il grande vento maestro svanì. Caterina raccolse la ghianda d'oro e la mise nella bisaccia. Intanto il sole s'era già quasi nascosto dietro le colline e il tramonto stava per accogliere il crepuscolo della sera. Rimasta sola, Caterina guardò le mura della fortezza, che svettavano alte sino ad intrufolarsi tra le nuvole. Poi guardò in basso e vide un imponente portone di bronzo fornito di un grande batacchio. Caterina lo sollevò con fatica e batté un colpo. Subito le guardie incoccarono le frecce gridando: «Alto là! Chi è che bussa alla fortezza del potente mago Chiremia?» «Mi chiamo Caterina e sono una principessa. Chiedo ospitalità per la notte», disse Caterina con voce sicura. «Attendete!» ordinarono le guardie. Dopo un po' fu lo stesso mago Chiremia ad aprire, e appena vide Caterina restò basito per la sua bellezza. «Salve, graziosa fanciulla, sono il potente mago Chiremia, padrone della fortezza», disse cordialmente il mago Chiremia. «Salute a voi, potente mago Chiremia, e perdonate l'ora tarda. Sono la principessa Caterina e mi trovo in viaggio di ritorno al castello. Purtroppo sono stata colta all'improvviso dall'oscurità della sera e ho smarrito la strada. Posso chiedervi ospitalità per questa notte?» «Ma certamente, principessa, sono onorato di potervi accogliere per quanto vorrete. Prego, entrate!» Il mago Chiremia ordinò subito alla servitù che venisse riservata alla principessa una stanza sontuosa e degna di una nobile fanciulla. Poi si rivolse a Caterina. «A proposito, principessa, per questa sera avevo ordinato una festa da ballo.» «Una festa da ballo?» disse titubante Caterina. «Saremmo comunque lieti di potervi avere tra noi.» «Oh, ma sì, certamente. Immagino vi colga di sorpresa e mi scuso, ma sono certo che una principessa del vostro rango avrà con sé il suo nobile abito da ballo. Dico bene?» «Oh, ma sì, l'abito da ballo, quello da viaggio che tengo nella bisaccia, certamente. Ah, lo porto sempre con me per le grandi occasioni. Non sia mai, ovviamente.» «Ovviamente, Bene. Allora questa sera, principessa Caterina. Vi ringrazio, potente mago Chiremia. A questa sera. In verità, il mago Chiremia voleva mettere alla prova Caterina per scoprire se ella fosse davvero di nobile stirpe, e qualora lo fosse stata, avrebbe rapito anche lei, per poi chiedere un riscatto. Appena Caterina rimase sola nella stanza, si disperò. Per la festa da ballo avrebbe dovuto indossare un abito principesco, ma non l'aveva, ovviamente. Dunque, come fare? D'improvviso la fanciulla si ricordò delle ghiande ricevute in dono, rovistò nella bisaccia e ne trovò una. Era quella d'argento. La prese e la posò sul tavolo, osservandola a lungo, ma non sapeva che cosa fare. Dopo un po', quando ormai la fanciulla aveva perso ogni speranza, uno scoiattolo volante entrò dalla finestra e planò sul tavolo, proprio accanto alla ghianda d'argento. Squit, squit! L'afferrò, stringendola fra le zampe, e appena cominciò a rosicchiarla, opla! Come per incanto, al posto dello scoiattolo, apparve un vestito principesco di pregiata fattura. Il suo colore era bianco avorio, con ricami di perle nere e bianche, insieme a rubini e tanti merletti di fili d'argento. Caterina rimase ad ammirare quell'abito. Quando fu l'ora di andare alla festa, lo indossò e si recò al ballo. Appena entrò nella grande sala, tutti gli invitati guardarono Caterina con occhi meravigliati. Era proprio bella, elegante e luminosa. La sorella del mago Chiremia, che dirigeva la festa, fu invasa in segreto dall'invidia. Rapida la donna s'avvicinò a Caterina. «Gentile principessa Caterina, io sono la contessa Giuditta la Bella, sorella del mago Chiremia. Benvenuta tra noi!» disse la contessa Giuditta la Bella. «Vi ringrazio per la gentile accoglienza, contessa Giuditta la Bella», disse un po' confusa Caterina. «Sapete, principessa Caterina, che il vostro abito è davvero splendido?» «Vi piace?» «Oh, quanto vorrei averlo anch'io!» «Oh, contessa Giuditta la Bella, se lo desiderate, potrei donarvelo!» «Donarmelo? Ma dite davvero?» «Oh sì, ne sarei davvero lusingata, contessa Giuditta la Bella!» «Oh, ma un dono così importante merita un giusto riconoscimento! Vediamo un po', vediamo un po'!» «Gentile contessa Giuditta la Bella, avrei io una richiesta da fare, se non sono inopportuna!» «Ma niente affatto! Principessa, parlate pure e ditemi, ditemi, che cosa desiderate, prego!» E Caterina raccontò del suo amato Giovannino, che si trovava incatenato nella torre. La principessina chiese di poterlo incontrare, accettando di restare in catena insieme a lui. Alla contessa Giuditta la Bella non parve vera quella richiesta e accolse subito la volontà della fanciulla. Ma la perfida donna non svelò che Giovannino non aveva più memoria a causa di una porzione malefica che gli era stata data da bere a sua insaputa, perché i suoi ricordi svanissero. Ignara di tutto, Caterina fu condotta dalla servitù in una stanza. Le tolsero il vestito principesco e, una volta vestita di cenci, venne consegnata in catene alle furie Duros. Quelle belve aguzzine condussero la fanciulla in cima alla torre, dove la rinchiusero insieme al suo Giovannino. Appena Caterina vide l'amato principe, i suoi occhi si illuminarono di gioia, ma lo sguardo del principe alla vista di Caterina rimase spento e privo di emozione, e nonostante ella gli parlasse della sorgente di pulci di neve e della strega Polinnia, della promessa di matrimonio, del mantello e del loro amore, Giovannino restò indifferente. Caterina non poteva credere che il suo amato principe avesse dimenticato tutto. Pianse e pianse e pianse come una fontana impazzita. Poi cercò nella bisaccia un fazzoletto per asciugarsi le lacrime e mentre lo vistava toccò con le dita la ghianda d'oro. Era forse quella l'ultima speranza? Caterina provò subito a tirare fuori la ghianda d'oro, ma nel levarla dalla bisaccia le scivolò a terra, spaccandosi in due parti e, sorpresa, dentro la ghianda d'oro vi stava uno scarabeo che, come per incanto, divenne anch'esso tutto dorato. Subito l'animaletto aprì le ali, volò verso l'orecchio di Giovannino e gli sussurrò: «O patatin, o patatam, o patapam, o patapim, o Giovannino, o bel principino, risvegliati ororora, pian pianino, dona i ricordi, il loro ritorno, promessa d'amore, via dal sonno, o patapim, o patapam, o patapam, o patapim». Dopo aver pronunciato quelle parole, lo scarabeo scomparve in un buchetto di fumo dorato e nello stesso istante il principe rinsavì, mostrando uno sguardo di stupore. «Amato mio principe Giovannino», disse Caterina piena di emozione, «mi riconosci? Io sono Caterina, la tua amata!» Con un grande sorriso, Giovannino prese tra le braccia Caterina e le disse: «Amata mia Caterina, io ti riconosco e voglio che tu sia la mia sposa. Ma come potremmo fuggire da qui? A guardia di questa prigione ci stanno le terribili furie d'Uros. Lo so bene, ma non mi importa cosa sarà. Amato mio, basterà che io stia qui, con te». I due innamorati si abbracciarono fortemente e restarono per un bel po' a contemplarsi in silenzio. Non avevano bisogno di parole. Poi, sfiniti, si addormentarono. Al sorgere del sole, i due innamorati ancora dormivano, quando, d'improvviso, si sentì un forte rumore di fuoco che ardeva. «Che cos'è?» dissero i due giovani spaventati. Si voltarono verso l'angolo della prigione e videro le grate della finestra sciogliersi in una grossa lingua di fuoco. Subito apparve un maestoso uccello bianco. Era la lumerpa. Il magico uccello apparso in sogno al padre di Caterina, il buon Sileno, era venuto in soccorso dei due giovani innamorati per portarli via sulle sue ali. Ma, ahimè, tutto quel fracasso aveva risvegliato nelle loro tane le furie d'Uros. Rapide e ringhiose, quelle belve immonde entrarono nella prigione, scagliandosi con ferocia sulla lumerpa. Il povero uccello provò a lottare, finché le furie d'Uros iniettarono i loro occhi di sangue e, rivolgendo le loro teste contro la lumerpa, scoccarono come frecce migliaia e migliaia di aspidi. La lumerpa fu trafitta in ogni parte dai tanti serpentelli e in un attimo sentì il veleno scorrergli nel sangue. Qualche attimo ancora e ripiegò le zampe, chinò il capo, batté le ali con un fremito violento, perse i sensi e scomparve, sopraffatta dalle forze del male delle furie d'Uros, contro le quali nemmeno la lumerpa ebbe il potere di sconfiggerle. Scomparsa la lumerpa, Caterina e Giovannino credettero che oramai la fine fosse vicina. Si presero per mano e chiusero gli occhi, in attesa anche loro d'essere trafitti. Ma non accadde nulla, perché i due innamorati non sapevano che sarebbero dovuti restare vivi, altrimenti il potente mago Chiremia non avrebbe potuto chiedere il riscatto. Cosicché le furie d'Uros si ritirarono nelle loro tane. Lentamente i due innamorati riaprirono gli occhi, stupiti d'essere ancora vivi. Restò il silenzio intorno. D'improvviso si sentirono dei potenti ragli d'asino provenire da oltre le mura della torre. Caterina riconobbe subito che chi ragliava in quel modo non poteva che essere il suo Ciuccomolente. Ciuccomolente? Ma com'era possibile? La prigione stava in cima ad una torre, lassù, in alto, vicino alle nuvole. E Ciuccomolente era un asino. E di solito gli asini non volano. Ma a che serve adesso fare certe domande se siamo in una fiaba? E tutto può accadere? Detto ciò, andiamo avanti. Su, bene. Si sentì subito un rumore sordo e potente, come se qualcuno scagliasse dei poderosi calci contro il solido muro di pietra, finché s'aprì un grande squarcio. Caterina vide là, fuori, oltre il cumulo di pietre, Ciuccomolente, che stava sospeso in volo. L'asinello volava, volava, proprio così, volava. Le sue orecchie erano diventate grandissime, come le pale di un mulino, e sbattevano forte, mentre il grande vento maestro le sosteneva con le sue raffiche. Ancora più incredibile fu che il vecchio Tiresia stava in groppa a Ciuccomolente, come un bravo cavallerizzo, mentre stringeva in mano la fune di canapa intrecciata, proprio quella con la quale teneva al guinzaglio la notte nera. E così, come fanno gli abili mandriani, la faceva roteare, roteare, sopra la testa. Yahoo! Yahoo! Rapido, il vecchio Tiresia lanciò la fune verso i due innamorati e gridò: «Presto, presto, Caterina e Giovannino! Non c'è tempo da perdere! Afferrate la fune e tenetevi forte! Yahoo!» I due promessi sposi afferrarono la fune, l'avvolsero intorno alla loro vita, si abbracciarono battendo naso contro naso e con un'affolata del grande vento maestro furono portati via. E incredibilmente ancora essi librano, tutti nell'aria, felici e contenti per sempre. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net